I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. I went to sleep last night, tired from the fight. I've been fighting for tomorrow all my life. Yeah, I woke up this morning feeling brand new. Cause the dreams that I've been dreaming, it's finally came true. It's a new day. It's a new day, è un nuovo giorno, così canta questo signore che si chiama Will.i.am, in arte William, ma forse è più semplice dirlo così. In realtà il cantante dei Black Eyed Peas, no? Una band che è conosciuta anche dalle parti nostre, si è fatta un mercato anche qui in Italia, ma lui poi se ne è fatto un altro di mercato, più inatteso, anche così. Più estemporaneo qualche tempo fa con quel video leccatissimo ma anche molto astuto, ben fatto, intitolato naturalmente Yes We Can, che diventò a livello planetario, oltre che uno straordinario veicolo, no, di promozione per Will.i.am, divenne anche una specie di inno parallelo, di sostegno, di supporto, di entusiasmo per la allora candidatura di Barack Obama. E adesso lui che ha fatto il sequel, come fanno tutti quelli a cui gli va dritta la prima, fa la seconda, si chiama It's a New Day, è un nuovo giorno, è naturalmente un gioioso, ascoltiamo quanto è gioioso. Beh, se non vi sentite elettrizzati così, vi sentite elettrizzati così, dovete sentirvi elettrizzati, perché questo è un brano elettrizzante per definizione, e se non vi sentite elettrizzati dovreste interrogarvi al riguardo. Comunque, insomma, un'altra furbata fatta da questo cantante, ma che è la punta di un iceberg su cui vogliamo spendere due parole oggi in apertura, ovvero questa ormai non deflagrante, deflagrata, esplosa, inondante Obama mania che sta riempendo gli Stati Uniti, quando mancano quasi una settantina di giorni all'insediamento di quest'uomo che ormai più che santo subito direi che già appartiene, no, all'Olimpo dei padri americani. Poi magari vuoi vedere che fra tre mesi, quattro mesi si becca un bel 35% di gradimento da parte dell'elettorato americano, che diventerà improvvisamente insoddisfatto per le sue prestazioni di presidente del paese. Ma di fatto in questo momento una specie di procedimento collettivo di liberazione sta esplodendo questa mania, che non ha nulla di politico e credo che abbia anche poco di razionale, al punto che sono sempre più numerosi gli osservatori che mettono in guardia anche dal come dire, fidare troppo nelle capacità taumaturgiche di un uomo che comunque deve ancora trovare le persone giuste per cominciare a confrontarsi con problemi che hanno dimensioni straordinarie e che, come consigliava l'ottimo David Brooks del New York Times in una spezzone che abbiamo ascoltato anche ieri, converrà vengano affrontati, presi uno alla volta, perché è impensabile che Obama tutte quelle cose belle, in certi casi straordinarie, che ha elencato nel suo programma elettorale nel corso della campagna, poi riesca a prenderle di petto, ad affrontarle nei primi tempi, ma verrebbe da dire nell'intero suo primo mandato. Ci sono cose che resteranno al palo, ci sono cose che non verranno mai affrontate, e ci sono quindi aree, no, dell'elettorato che di questo non saranno contente. E oggi, proprio a questo argomento, e per la precisione a Guantanamo, alla promessa di smantellamento di Guantanamo contenuta nei comizi di Barack Obama, e a che cosa significa veramente, che cosa c'è dietro, dedicheremo tra l'altro uno spazio. Ma volevo dirvi ancora di questa passione, no, di queste aspettative che potrebbero nascondere delle delusioni per la straordinaria ascesa di Barack Obama. Il Los Angeles Times presenta una divertente intervista con un signore ultra sessantenne che si chiama Edward Robert L., che fa il venditore ambulante a Los Angeles e che racconta come lui, a suo modo, una piccola fortuna su Barack Obama l'abbia fatta inventandosi una serie di spillette tematiche, no? Che ha fatto? Ha preso una fotina di Barack Obama, ha preso una fotina di Martin Luther King, le ha appiccicate una vicino all'altra, ha ordinato a qualche laboratorio di stampargli un po' di spillette, ha cominciato a venderle a un angolo di una strada di Hollywood. All'inizio vedeva che a 50 centesimi andavano via molto bene, allora le ha messe un dollaro, andavano via molto bene, allora le ha messe $2, andavano via molto bene. Quando a $3 le ha esaurite, ha capito che qualcosa stava succedendo nel suo paese. Sostiene di averne venduti 3.000 in un paio di giorni, che quindi 3.000 per $3, si è fatta una piccola fortuna, insomma una Obama mania che si va legando anche a tutti questi logos, no? Con la faccia di Obama. Adesso da un po' di tempo ce n'è uno che gira dappertutto. Personalmente ho ricevuto in regalo una scatola di mentine con sopra scritto che erano tipo garantite da Obama, una cosa del genere, con quel logo in stile Andy Warhol, no? Un po' solarizzato della faccia di Barack Obama. C'è anche, scrive in un editoriale molto interessante, Gail Collins, che è una penna del New York Times, c'è anche una specie di dipendenza dalle elezioni, ovvero finite le elezioni, gli americani, che hanno ben altri problemi in realtà con cui doversi confrontare, ma si sono resi conto che si sono così divertiti, così appassionati, verrebbe da dire mediaticamente anche così distratti a star dietro ai sondaggi, a sentirsi sondati mattina e sera, che non ne vogliono pensarci, pensare di smetterla, di non essere più sondati, tant'è vero che in mancanza d'altro ci si sta così concentrando sugli avanzi, sui residui di questa corsa elettorale, nella fattispecie sulla corsa per tre stati che ancora sono rimasti in sospesa. Uno è il ormai proverbiale, leggendario Alaska, che pare verrà sottratto a Stevens, che è stato per anni e anni il senatore, il seggio senatoriale dell'Alaska, uno dei più antichi e solidi e garantiti del Senato americano. In Minnesota c'è uno scontro a colpi di brogli o di accuse di brogli elettorali tra un repubblicano che si chiama Norm Coleman in cerca di conferma e un autore comico, pensate un po', un giornalista, autore comico, uno scriveva su Playboy prima, famoso un suo articolo Pornorama. Ebbene, questo signore Al Franken, anche grazie a finanziamenti potenti, è riuscito a spuntare esattamente gli stessi voti di Coleman. Adesso hanno un giorno contano i voti e ne ha 100 di più uno, il giorno dopo li ricontrano e ne ha 100 di più l'altro, non so come finirà, probabilmente con un incontro di wrestling tra i due. E poi c'è anche un'altra moda che sta riempendo i giornali americani in questi giorni. If you want to get a job here, you'll need to act quick and jog on over to the new website change.gov. Change.gov, change.gov. Di che cosa si tratta? Si tratta della idea più di moda in questo momento tra i giovani, soprattutto dell'area di Washington, ma forse anche del Nebraska e del New Mexico profondo. Visto che Obama ha sollevato tutte queste emozioni, semplicemente perché non andare a lavorare con lui, per lui, a fare lo staffer, lo stagista alla Casa Bianca, mestiere un tempo, no? Negli anni 90 così tristemente famoso, ma adesso invece in grande rilancio. Si guadagna poco, ma ci si fa una esperienza straordinaria e poi magari si può addirittura avere l'emozione di correre su e giù per gli scaloni della Casa Bianca sotto lo stesso tetto che ospita Barack Obama. Non è facile per niente, bisogna riempire 7 pagine di questionario, ci sono 63 domande sulla tua vita professionale e privata, il lavoro insomma te lo devi meritare a partire da questi test, ma la possibilità è aperta a tutti, naturalmente se si entra nelle categorie richieste. Lo staff di Barack Obama però fa sapere che, per quanto contrario alle lobby, per quanto contrario ai favoritismi, per quanto intenzionato a ripulire Washington, i primi ad avere a trovare lavoro alla Casa Bianca naturalmente saranno quelli che hanno fatto campagna elettorale proprio per lui, il presidente eletto Barack Obama. sexy. Okay, yeah, this is so fat. Don't wait to get with you. Sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. I'm sorry, baby. So sexy. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, maybe cause you love me. You do well. So then we tried. Singing it slow now because you weren't used to how fast we touched. We touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't there, and I was gonna tear your ass up. Yeah, I know that I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on, unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop frontin'. Sneak and look at me, and girl, I love it. Then you give your other girl a shove, tell her you gon' call her, ask how it was, and she's gon' love it. Whoa, whoa. Yeah, yeah. So then we tried. I'm singing it slow now because you weren't used to how fast we touched. Fast we touched. Then we locked eyes. And I knew I wasn't. And I was gonna tear your ass up. Your ass I know up. That I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on. Arriva un altro nome a comporre questa squadra di governo, questa amministrazione Obama in via di allestimento. Questo è un personaggio, diciamo, parallelo, no? Ma comunque interno alla squadra, perché è stato scelto da Joe Biden, il suo capo di gabinetto, il capo di gabinetto che guiderà, in un certo senso orienterà le mosse dell'ufficio di vicepresidenza che Joe Biden si è aggiudicato come compagno di ticket di Barack Obama. Si tratta di Ron Klain, aveva già rivestito, pensate, è una conferma, è un ritorno, tra l'altro è un ritorno che dà ulteriore benzina all'idea che i clintoniani, non i Clinton, quelli li lasciano a Chappaqua nella loro mansion molto elegante, ma invece i clintoniani, lo staff di Bill Clinton, spesso e volentieri assai lodato per la sua efficacia, anche in certi casi per la sua estrema disinvoltura, sta tornando prepotentemente alla Casa Bianca. John Podesta, il capo del procedimento di transizione, è un clintoniano di ferro. Anche Ron Klain è un clintoniano, perlomeno è colui che aveva già fatto il capo di gabinetto per un vicepresidente, per la precisione, per Al Gore negli anni 90. Prima pagina. E noi con le notizie cinesi andiamo invece nella vicina, almeno rispetto a Pechino, Corea del Nord, perché il regime coreano decide di inasprire quella che è già la via che da anni applica, cioè quella dell'isolamento dal mondo, volente o nolente, perché il 10 dicembre verranno chiuse le frontiere sia a nord che a sud del paese, quindi verranno interrotti completamente i collegamenti via terra con la Cina. Per i turisti cinesi quindi rimangono soltanto i voli aerei da Pechino e da Shenyang. In questo momento pare che i treni merci che collegano i due paesi, 4 ogni settimana, siano ancora attivi, ma appunto non si sa poi se questo andrà avanti anche dopo il 10 dicembre. Ricordo che la Cina è stata a lungo alleata della Corea del Nord, poi però da qualche anno c'è stata un'inversione di tendenza, il legame si è incrinato e addirittura il governo di Pechino è arrivato recentemente a costruire un muro di difesa lungo i confini, un po' come gli Stati Uniti col Messico, insomma, tanto per fare dei paragoni. C'è poi una dichiarazione riportata dal Financial Times di un esponente governativo americano, credo il governo Bush, che è ancora quello in carica, no Stefano, che parla di un assembramento di truppe cinesi ai confini con la Corea, quindi la situazione è da tenere pesantemente sotto occhio. Un assembramento di truppe cinesi. Queste sono le parole usate dal Financial Times. Ok. E Secchi invece, a proposito di dipendenza da elezioni, stavamo notando anche adesso con la televisione accesa, non riusciamo più a toglierci di torno, nel senso che noi accendiamo e lei lì che parla, anzi adesso parla in diretta, mi sa che se alziamo la sentiamo pure. Within our state and, progress within our states, perché dice progress, sentite, questo si chiama twang, si chiama non so come dire, accentone, è una cosa che magari a noi sfugge un po', ma per gli americani sentire una voce che parla un neanche un inglese, un americano così spinto, così locale, magari sentiamo ancora un po' perché è anche divertente. His many willing winning qualities is the willing, gift that he dice, has of optimism. Sarah Palin. Sarah Palin, accendi la televisione e arriva. Lei fa finta che non si è mica accorta. Però ha le elezioni le ha perse. Quasi, sì, ha una smorfia di dolore ed è vestita, diciamo, in modo più dimesso di nero, che i lutto. $150,000 di cui sopra, e di nero a lutto, come nota Emiliano. Però di fatto è sempre in televisione. Ieri era da Larry King a fare il suo intervistone, l'ha fatto ormai tutti i possibili, poi magari comincerà un secondo giro, e il vertice l'ha raggiunto quando ha detto che prega molto per lui, per la sua famiglia, per la sua amministrazione, e stava parlando di Barack Obama. Tu ci credi? Che probabilmente Obama poi ha anche altro a cui pensare, direi, alle preghiere della Palin. Torniamo in Cina e a quello che è stato per lungo tempo il clima olimpico, perché parliamo del simbolo forse per eccellenza delle Olimpiadi 2008, cioè il Nido d'Uccello, questo straordinario stadio che è un po' la cartolina della Pechino Olimpica. A quanto pare però ci sono delle proteste, perché fare un giro, una visita turistica dentro il Nido d'Uccello, che è stato già inserito tra i monumenti della città, costa un po' troppo per le tasche non proprio larghissime dei cinesi. Praticamente costa l'equivalente di 5 euro ed è quanto si spende per un viaggio, per un giro direi forse più interessante, nella città proibita. E tra l'altro nel giro del Nido d'Uccello non ci sono nemmeno gli sconti previsti, quindi è partita una protesta di tante persone, rimbalzata poi nelle agenzie di stampa cinesi, però c'è l'agenzia, il consorzio che gestisce, che avrà in dotazione per i prossimi 30 anni la gestione dello stadio, si è giustificato dicendo che le spese di manutenzione sono alte. Ma è vero, perché ho visto una bella fotona l'altro giorno di una cinquantina di cinesi sospesi ai cavi, no? Quelli fatti apposta, che pulivano dall'esterno il vetro della piscina, quella nido d'ape, non so come, certo, comunque, come si chiama, che va pulita come dire, cellula per cellula. Non è uno rimane spesso. Il fatto, insomma, che 5 euro sono tanti per i cinesi. Costa un po' meno la visita al Water Cube, no? Il Water Cube, lo stadio del nuoto, costa 3 euro. Ecco, questa è la differenza. Vabbè, comunque io, vista la pioggia che incombe su Roma, ho nostalgia di quando dicevamo: e intanto a Pechino. I didn't hear a lot from them about actual production of U.S. energy supplies that we need now to protect our economy and our nation. Economy, noi non resistiamo ormai, purtroppo sentir parlare Sarah Palin è una specie di droga. Peraltro questo comizio viene mandato in diretta, è abbastanza sorprendente, no? È un raduno di governatori che si sta svolgendo a Miami. Uno si chiede perché, dopo che è stato eletto Barack Obama e molte cose sono in discussione, Fox News manda integralmente un comizio di Sarah Palin a un convegno tra governatori, come se fosse, non so, un convegno tra presidenti delle regioni. Mica lo mandano tutto in diretta, perché c'è attenzione su questo personaggio, un po' perché lei la richiede a gran voce e non fa mistero di avere ambizioni che quadriennali, se possiamo dire così, un po' perché il personaggio funziona, comunque si muova, dica, faccia, l'America è attenta. Poi magari il primo giro è andato come è andato. Ci scrive per esempio Jack un messaggio, dice: se la presidenza Obama dovesse ottenere e mantenere grandi consensi, i repubblicani potrebbero candidare Sarah Palin nel 2012 consci della sconfitta. Ma non credo che metterebbero la testa proprio dentro al forno, anche se Obama avesse successo. Ma di fatto il personaggio Palin sta, se non altro, esplorando, diciamo, nuove vie per i conservatori, per la politica conservatrice americana. Poi c'è Dan che vuole fondare il nucleo anti-Palin, il NAP, ma è fuori legge, Dan. Vi avevo annunciato che avremmo discusso a questo punto di uno degli argomenti, dei temi più controversi ma anche più interessanti e più da capire della campagna elettorale di Barack Obama, quello che va sotto la dizione Gitmo, o meglio Guantanamo, insomma la chiusura ventilata a più riprese dichiarata da parte dell'allora candidato democratico della prigione di Guantanamo. Per farlo abbiamo chiamato Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, autore del libro Guantanamo, viaggio nella prigione del terrore, che molto ha scritto, molto ha anche visto con i suoi occhi e sicuramente ha delle idee a riguardo di quanto propone Barack Obama. Ma innanzitutto buon pomeriggio, Carlo. Buon pomeriggio a voi. Ma io vorrei, se mi aiuti, partire però da un chiarimento di massima, da un chiarimento di fondo che forse può essere all'origine anche di qualche equivoco. Cioè vorrei che tu rapidamente ci spiegassi che cos'è Guantanamo. È solo il frutto della perfidia di una amministrazione che vuole in questo modo umiliare, mettere a berlina, segregare al di là dei diritti civili personaggi che ritiene pericoloso, o è anche qualcos'altro? Ma Guantanamo forse è stato uno degli errori più simbolicamente e materialmente più forti dell'amministrazione Bush, per due ordini motivi. Guantanamo nasce con una doppia funzione, diciamo preventiva, nella logica dell'amministrazione Bush, quindi appunto di inviare un monito al mondo, a quel mondo del radicalismo islamico cui l'amministrazione Bush aveva dichiarato guerra, che non sarebbero stati fatti prigionieri, certo. La guerra non avrebbe avuto quartiere. Dall'altro, il Guantanamo era stata immaginata come una risorsa per l'intelligence americana. Gli Stati Uniti, che l'11 settembre del 2001 si erano scoperti ciechi rispetto alla minaccia che li aveva colpiti, erano convinti che un campo di concentramento come quello di Guantanamo, in cui raccogliere prigionieri, anzi combattenti nemici, secondo la definizione legale, certo, inventata dal Dipartimento di Giustizia americano, certo, avrebbe consentito, attraverso lunghi interrogatori e una detenzione senza termine, di ottenere informazioni utili alla guerra al terrore. L'uno e l'altro obiettivo immaginato con la nascita di Guantanamo si sono, sono rivelati illusori. Guantanamo non ha funzionato come deterrente, è sufficiente vedere, ripercorrere la storia degli attentati dal 2003 in poi. Guantanamo non è stato una risorsa per l'intelligenza americana, dal momento che, per quel che se ne sa, non c'è stato un solo atto ostile nei confronti degli Stati Uniti, consumato o pianificato, che sia stato evitato grazie alle informazioni raccolte a Guantanamo. E al tempo stesso è diventato un simbolo, in negativo. Esattamente, per questo parlavo prima di errore drammatico dell'amministrazione. Guantanamo è riuscito ad aprire un solco profondo tra gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali, ed ha guadagnato in quel mondo appunto del radicalismo islamico altri punti di odio di cui francamente non si sentiva il bisogno. Proviamo a prefigurare, Carlo, le possibilità che ha a disposizione Barack Obama, poi pragmaticamente, visto che da qualche tempo è diventato il candidato pragmatico dopo essere stato il leader emozionale d'America, a disposizione di Barack Obama. Io ti faccio tre ipotesi, dimmi secondo te qual è quella percorribile: tribunali civili, tribunali militari, tribunali speciali. Cosa può fare Obama? Io credo che ragionevolmente Obama darà un seguito politico alla pronuncia della Corte, l'ultima pronuncia della Corte Suprema del luglio scorso, che prefigura un itinerario che è giuridico e politico, e cioè con la consegna degli attuali detenuti di Guantanamo alle corti federali, al giudizio delle corti federali, dove i prigionieri potranno difendersi secondo le regole del diritto comune e quindi potranno godere di tutti i diritti riconosciuti che discendono dal principio cosiddetto dell'habeas corpus. Pensi che... Vai. Dico che è la più verosimile, anche perché anche negli ultimi mesi dell'amministrazione Bush i repubblicani si erano dimostrati disponibili a una situazione, a una soluzione di questo tipo, che in qualche modo non sconfesserebbe con un unico gesto il lavoro di 5 anni dei repubblicani, ma ne farebbe cessare la illegalità sotto il profilo del diritto internazionale. Dal tuo punto di osservazione, quali sarebbero, in breve, per concludere, gli effetti pratici di una chiusura di Guantanamo, oltre naturalmente quelli di rispetto dei diritti umani? Ci sarebbero delle risonanze, secondo te, immediate sul piano internazionale? Ma io credo proprio di sì. Simbolicamente la chiusura di Guantanamo equivarrebbe alla sua apertura, a quella che è stata la sua apertura. Vedere smontare quelle gabbie avrà lo stesso effetto simbolico e emotivo a Occidente e a Oriente che ebbe vederle montare. E da un punto di vista politico credo che questo significherebbe ricucire, come dicevo prima, quella ferita profonda che si è aperta tra gli Stati Uniti e paesi come l'Inghilterra, come la Francia, ma come la stessa Australia, che su Guantanamo hanno aperto negli ultimi anni dei veri e propri contenziosi. Allora, grazie a Carlo Bonini. Vi ricordo il suo libro pubblicato da Einaudi su questo argomento, si intitola Guantanamo, viaggio nella prigione del terrore. Don't travel ready. un'occhiatina su nel cielo qui dalla finestra, lo diamo anche noi. Non è che sia proprio rassicurante il maltempo. Altro che Pechino 2008, quando faceva caldo e vedevamo il sole da questa finestra. Comunque ieri abbiamo cominciato ad affrontare un argomento sul quale oggi intendiamo tornare. Prima di tutto, partendo da una agenzia uscita pochi minuti fa, parla del ritorno del fantasma, della sagoma, no? Del bambino soldato. Negli ultimi mesi l'intensificarsi dei combattimenti tra l'esercito congolese e i ribelli del generale di etnia Tutsi, si chiama Laurent Kunda, ne abbiamo già parlato ieri, hanno fatto aumentare i rapimenti di giovanissimi da arruolare nelle varie milizie. I ragazzi vengono usati soprattutto per trasportare armi e spesso e volentieri subiscono abusi. Stavamo tornando a scuola quando abbiamo incontrato i ribelli, ci hanno fatto portare le valigie e poi ci hanno detto di seguirli, racconta un sedicenne intervistato dalla BBC in un documentario proprio sul tema dell'arruolamento forzato dei bambini, dei soldati bambini. Ma ieri avevamo interconnesso questo argomento di un'ennesima turbolenza nel continente africano alla presenza dei due grandi fratelli, che in un certo senso stanno osservando, spiando e facendo in modo di spartirsi tutto ciò che dal continente africano, soprattutto da alcune nazioni dell'Africa, può sortire. Nel caso del Congo non è poco, e abbiamo parlato appunto della guerra tra esercito regolare di Kinshasa e i ribelli e del ruolo attivo della Cina nella regione grazie a recenti costosi accordi commerciali stipulati con il governo congolese. Ne abbiamo parlato in una prima parte dell'intervista con Maria Stella Rognoni, che è una ricercatrice di storia dell'Africa all'Università di Firenze. Ha fatto un discorso in generale sulla presenza cinese in Africa ed eravamo rimasti alla domanda se i cinesi possano essere considerati nuovi colonizzatori del continente. Una risposta non è facile, ci ha aiutato anche Don Filippo Di Giacomo a ragionare sulla questione, ma ascoltiamo di nuovo Maria Stella Rognoni, che approfondisce proprio la questione del rapporto da colonizzatori dei cinesi all'inizio del XXI secolo con questa parte dell'Africa. C'è chi vede in questa volontà anche di portare avanti accordi bilaterali il tentativo di passare sopra la testa delle popolazioni, poi che sono le più direttamente coinvolte, perché sappiamo anche il deficit di legittimità politica di molti governi africani. Quindi più facile fare accordi bilaterali tra governi piuttosto che invece coinvolgere in movimenti più ampi anche le popolazioni, che poi ripeto sono le dirette interessate. E questa è un'altra critica che si muove al modus operandi cinese. In questo caso specifico dell'accordo con il Congo sono stati presi alcuni accorgimenti che sembrerebbero rispondere o prevenire critiche sulla tentativo di colonizzazione. Per esempio, una parte degli investimenti è destinata, si dice, a investimenti nelle comunità locali, si limita l'impiego di manodopera cinese ad un 20% e non oltre, per tutto quello che discenderà dall'accordo della creazione di questa joint venture per l'estrazione delle minerarie. Per cui alcuni accorgimenti sono stati presi probabilmente anche in virtù delle critiche che sono piovute addosso alla Cina per come ha investito, come si è mossa altrove in Africa, a cominciare dall'Angola, ma anche in Mozambico, anche in Guinea Equatoriale, cioè in tutti quei paesi dove il richiamo delle risorse è stato forte ed ha prevalso su tutte le altre considerazioni di tipo politico, di tipo sociale. Ma non c'è solo la Cina in Africa, no? Ieri sulla Stampa Mimmo Candido ha scritto che l'iniziativa cinese in Congo segna l'inasprirsi di un conflitto strategico con niente meno che gli Stati Uniti d'America, guarda caso. Allora cerchiamo di capire da Maria Stella Rognoni se con l'arrivo di Obama alla presidenza cambierà l'atteggiamento americano nel continente africano. C'è da augurarsi, io penso, un maggiore impegno in chiave multilaterale, peraltro già asserito da Obama durante la campagna elettorale, dove per maggior impegno in campo multilaterale io penso ad un investimento maggiore davvero in soluzioni condivise che passino attraverso un utilizzo migliore, più efficace degli strumenti che già ci sono. Giusto per capirsi, in due parole, come potrebbe sintetizzare la politica di Bush in 8 anni in Africa? Certamente non è stata al centro del suo interesse ed è la politica africana è stata costruita soprattutto intorno al dato militare e al problema della sicurezza. Quindi dobbiamo operare laddove ci sono timori o avvisaglie di recrudescenze terroristiche, tutto il resto verrà. E questo con Obama diciamo potrebbe cambiare? C'è da augurarselo, questo certamente. Se lei dovesse ipotizzare su quale settore, quale stato, quale nazione africana l'America dovrebbe concentrare o concentrerà le sue iniziative? Ma sono diversi, ovviamente vengono subito in mente i paesi che più possono contare anche sul piano diplomatico, Sudafrica, Nigeria e perché no Congo, ma un Congo diverso da quello attuale, un Congo la cui leadership politica finalmente acquisti legittimità e perda questa nomea che ancora l'accompagna dai tempi di Mobutu di essere una leadership che poco pensa al proprio paese e molto invece agli affari che grazie alle ricchezze del paese si possono fare. E con i cinesi è più facile che troveranno un accordo o ci potranno essere grossi terreni di scontro? Difficile fare previsione, è tutto da vedere. Certamente la questione delle risorse è destinata ad avere ancora maggior spazio di quanto già non ne abbia avuto nell'ultimo decennio e su questo l'Africa nel bene e nel male, purtroppo penso più nel male che nel bene, molto da dire. Come vi parliamo di Africa, vi parliamo del grande mondo che gira e che cambia, vi parliamo delle nuove prospettive americane e voi ci scrivete e ci chiedete se abbiamo notizie del nostro eroe innamorato e della bella cinese. Parliamo di Paolo, proto archeo eroe di Jefferson Ming. Ci sentiamo moralmente obbligati al più presto a rispondervi, quindi presto lo saprete. Questo è Jefferson Ming, sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte. L'indirizzo mail è jeffersonming@radio24.it. Questa puntata va in replica stasera alle 9, noi ci sentiamo in diretta domani alle 4, sempre qui da Radio 24. Yeah.